alla sera nel bar con gli amici. Si parlava di donne e motori. Si diceva son gioie e dolori. Lui piangeva e parlava di te. Se si andava in provincia a ballare, si cercava di averle più belle. Lui restava a guardare le stelle, sospirava e parlava di te. Alle carte era un vero campione, lo chiamavano il re del quartiere, ma una sera giocando a scopone perse un punto parlando di te. Alla fine una notte si uccise per la gran confusione mentale. Fu un peccato perché era speciale, proprio come parlava di te. Ora dicono che era un poeta e che sapeva parlare d'amore. Cosa importa se in fondo uno muore e non può più parlare di te?